ciao caro Lara, ti saluto dal Trentino. Ho sentito che stai cercando un fidanzato. Io sarei qui apposta per te. Sono alto, prestante, lavoro nel commercio, 1,90 abbronzato, vado tanto con gli sci. Secondo me ti stai annoiando con quella storia della politica in Forza Italia. Dovresti mollare tutto e venire su da me in montagna. Ti farò vedere come viviamo noi qui nei maggi, nei fienili. Io lavoro nel commercio, ho tutte le carte in regola. Guarda, vieni qui e io ti aspetto a braccia aperte.